La legge e il DDL sicurezza attacca molte libertà e molti diritti, attacca il diritto al dissenso in primis, attacca diritti e libertà conquistate in anni di lotte e attacca anche le forme di mobilitazione e di attivismo che si sono sviluppate negli anni a cavallo della pandemia. La mobilitazione nazionale quindi è una mobilitazione seria che non si ferma, che si sta allargando in ogni momento e che per questo ha indetto questa giornata di mobilitazione a livello regionale, cittadino, diffusa e capillare nei territori per il 22 di febbraio. Ci saranno manifestazioni oltre che a Bologna, a Milano, a Napoli, a Roma, quindi nelle città principali, e ci saranno altre decine di iniziative di mobilitazione di presidi in tante città della provincia, in tante città del paese, e soprattutto ci sarà una cornice comune di queste mobilitazioni. Ci saranno parole chiave che usciranno da tutte le mobilitazioni che anche noi rilanceremo a partire da Bologna. In una parola, questo DDL sicurezza attacca i diritti, ma mostra le difficoltà di questo paese, mostra la debolezza che ha anche questo governo apparentemente forte, perché attacca tutte le questioni che riguardano il benessere delle persone, dalla casa, al lavoro, al diritto di sciopero, alle questioni climatiche, ambientali, e quindi è il simbolo di un paese che non funziona, è il simbolo di un paese che non funziona, e con il DDL sicurezza si vuole il governo premunire per quello che succederà in futuro, cioè avere la possibilità di reprimere chiunque osi alzare la testa e lottare, insomma, in tutti i luoghi, in tutti gli spazi. La mobilitazione del 22 di febbraio è una mobilitazione regionale che vede la partecipazione di attualmente oltre 40 realtà che hanno aderito formalmente all'appello, in aggiornamento, in crescita, da diverse città della regione, che partiranno e raggiungeranno Bologna e che insieme a noi si vedranno in piazza 20 settembre alle 15 per esprimere anche un'idea diversa di sicurezza, cioè la nostra, l'idea di sicurezza che questa regione porta con sé anche dopo due alluvioni, porta con sé il corpo attraverso appunto la quotidianità, ed è una sicurezza che fa rima con giustizia sociale e non con paura, che è l'altro modo con cui abbiamo rinominato questo DDL. Attualmente il DDL sicurezza è passato al Senato, finalmente dopo la mobilitazione sono successe delle cose, si è espresso il Presidente della Repubblica su 4 punti in particolare, ci sono state indirizzi e lettere, diciamo, di preoccupazione da parte di organi internazionali come l'ONU, l'OCSE e il Consiglio d'Europa, e finalmente con ritardo però anche l'opposizione parlamentare si è mossa, per cui attualmente il DDL è pieno di emendamenti, quindi è fermo nelle commissioni del Senato, ma ricordiamo che, salvo rallentamenti frutto appunto di questa mobilitazione, è prevista la discussione, l'inizio della discussione in Senato per il 4 di marzo, quindi questa mobilitazione regionale e territoriale cade in un momento molto importante, perché anche, diciamo, dalle sorti di questa manifestazione dipenderà l'esito di un percorso che va ben oltre Bologna.